tesi in attesa, teorie e tecniche di improvvisazione professionale, in collaborazione con il Master in Radiofonia dell'Università Yulm di Milano. Studio e lavoro, due aspetti della vita che dovrebbero essere conseguenti l'uno rispetto all'altro, ma che in realtà si incrociano moltissimo. Una prima distinzione va fatta, quella fra lavoratori studenti e studenti lavoratori. I primi sono lavoratori che iniziano o proseguono gli studi. I secondi sono studenti che decidono di iniziare un'attività per finanziarsi gli studi o per avere una certa autonomia economica. Una ricerca del 2008 del consorzio interuniversitario Alma Laurea ha scoperto che il 10% dei laureati erano lavoratori studenti, ma ben il 64%, quindi 2 su 3, erano studenti lavoratori, lavori più o meno regolari o continuativi. E proprio di questi ultimi vi parla Tesi in Attesa, un programma di Radio 24 in collaborazione con gli studenti del Master in Radiofonia Quando Verba Manent dell'Università Yulm di Milano, che hanno battuto le università italiane per scoprire le storie di questi studenti che lavorano e di ex studenti che in qualche modo ce l'hanno fatta. Iniziamo con la prima storia di oggi. Rifugiarsi nel mondo della letteratura per scappare da quello dei numeri. Sembra il trailer di un film giallo, ma in realtà è la storia del primo intervistato, Steven, 24 anni, studente di ingegneria gestionale all'Università di Bologna, che per arrotondarsi gli studi si è cimentato nell'impresa di scrivere un libro noir. Ma sentiamo da Steven come ha fatto a iniziare questa avventura. Tutto è iniziato parallelamente all'università. Studiavo ingegneria gestionale, e come tutte le facoltà di ingegneria, nei primi anni si vedono soltanto numeri. Ovvero si utilizzano lettere come numeri, immagini come numeri. Allora ho detto, perché non rivalutare la parola e provare ad utilizzare la parola per quello che è? E mi sono appunto voluto imbattere e cimentare in questa epopea un po' strana, un po' divertente, un po' anche stressante. Titolo del tuo libro e di cosa parla? Il popolo degli specchi, ed è una storia ispirata ad una storia vera che riguarda un archeologo famoso vissuto nel secolo scorso, che ha trascorso la sua intera vita a cercare le radici della civiltà di Atlantide. Erich Derfield Schliemann, lui scomparve durante una delle sue ultime spedizioni, non si seppe più nulla, e solo anni dopo il nipote decise di riprendere in mano le ricerche, pubblicando le stesse e rendendo noto quanto il suo avo aveva scoperto. Parlando di questo libro, quanto ti è fruttato economicamente? Non ha fruttato moltissimo, essendo comunque un autore assolutamente esordiente, la mia prima esperienza su 2.000-3.000 euro, quindi stiamo parlando di non più di 1.500-1.600 copie. Un successo, sì, un successo inaspettato, soprattutto a livello personale, considerando che il libro non è nato come libro per essere pubblicato, ma è nato come avventura mia personale, che poi lo ha visto pubblicato in seguito, e la soddisfazione più grande è stata quella di trovare qualcuno che in effetti valutasse il mio lavoro. Che progetti hai in cantiere? Un noir ambientato nella nostra Puglia e che ripercorrerà quelle che sono state le leggende, la vita del dio Odino. Invece l'altra storia che è in cantiere, parallelamente, un thriller nato in Spagna in quest'ultimo periodo, che ho avuto la fortuna di trascorrere nella splendida città di Valencia, perché è il classico giallo che vedrà un assassino, vedrà un ispettore, una storia con grandi colpi di scena. Ma come ti vengono in mente le idee per un tuo romanzo? Dal titolo, da quello che può essere un'idea, un tema, costruire la struttura base e poi le varie vicende che si intersecano all'interno di una macro storia che rappresenta il filo conduttore stesso del romanzo, del racconto che voglio creare. L'ultimo esame che hai dato è il voto? Ottimizzazione delle risorse, è un esame di ricerca operativa, di progettazione, formulazione di algoritmi per la gestione dei processi industriali, e ho avuto 30 trentesimi. Cosa farà Steven da grande? Vorrei realizzarmi per quanto riguarda il mondo lavorativo, piacerebbe appunto partecipare attivamente all'implementazione di sistemi innovativi, di processi industriali, in modo da ottimizzare e migliorare le condizioni attuali di un'impresa, partecipare, non so, a progetti di ricerca e sviluppo, innovazione di prodotto. (Musica) Il lavoro di cui stiamo per parlare sembra un po' uscito da un romanzo giallo. Martina, classe 1986, studia economia a Firenze e fa la mystery client. Prima di chiamarla vado su internet per capire un po' meglio di cosa si tratta. Tecnicamente, mystery client è uno strumento per valutare i servizi e i prodotti offerti da un'azienda, dal punto di vista del cliente. Martina, che cosa fa una mystery client in pratica? Il mio compito è quello di andare in un negozio e far finta di acquistare qualcosa, e quindi poi dovrò, alla fine di questo incarico, dovrò compilare un questionario in cui scriverò dettagliatamente tutto ciò che mi è successo all'interno del punto vendita, diciamo. Ogni quanto lavori, Martina? È saltuario come lavoro. Posso lavorare 5 giorni a settimana come zero. I punti vendita nei quali io mi devo recare sono soprattutto grandi catene. E tu di solito come ti sei comportata? Come ti sei sentita quando entravi dentro e facevi finta di acquistare? Ma sinceramente fino adesso si sono comportati tutti bene nei miei confronti. Ho sempre avuto buone esperienze comunque. Però può capitare magari che il negozio sia abbastanza pulito o non ci sia illuminazione nei camerini, e questo ovviamente può recare punti a sfavore al punto vendita. Come mai hai iniziato a fare questo lavoro? Sinceramente questo è uno dei tanti lavori che svolgo. In realtà è anche un lavoro molto divertente. A chi è se non piace andare a fare shopping? Quanto ti viene alla fine del mese, insomma, con questo lavoretto qui? Non è che ci vivrei con questo lavoretto. Alla fine del mese, appunto, mi posso venire come 50 euro, come 200, ma non va oltre. E questi soldi dove vanno a finire? Li spendo in shopping. I nostri vizi sono abbastanza elevati. Di noi ragazzi di 25 anni abbiamo certe esigenze, tipo uscire, e quindi diciamo che 200 euro è una cifra minima e mi basta per quello. L'università invece come procede, Martina? A che punto sei? L'università procede bene, sono quasi alla fine, quindi... Qual è l'ultimo esame che hai dato e quanto hai preso? L'ultimo esame che ho dato, economia e gestione delle imprese, ho preso 26. Ma tu cosa vorresti fare da grande? Sinceramente sono un po' disillusa in questo momento per come stanno andando le cose. Mi appassiona tantissimo lavorare nel campo della moda, infatti ho scelto economia perché dovevano attivare un corso che si chiamava Economia e Marketing della Moda. Però poi non l'hanno attivato, io sono rimasta comunque là, guardando tutti i giorni gli annunci di lavoro. Capisco che in realtà nessuno cerca personale qualificato e quindi è per questo che sono disillusa. Il prossimo ospite di oggi un tempo era studente di agraria, ma gli studi, nel suo caso, non hanno dato i frutti sperati. La storia di Francesco Colombo è la tipica storia di chi inizia studiando una materia e poi finisce a fare tutt'altro. Anche Calvino, d'altronde, ha smesso di studiare agronomia per diventare Calvino. Francesco ha deciso di lasciare il mondo delle piante, ma non ha rinunciato al suo desiderio di far crescere e sbocciare qualcosa. Infatti, ha contribuito a far nascere l'azienda Tucano Urbano. Ma come hai iniziato? Io ho iniziato a lavorare in Tucano nel 93 circa. La Tucano Urbano è nata come società a sé nel 99, per cui ho iniziato a lavorare su prodotti computer, e poi è nata più o meno quando sono arrivato io la linea moto, grazie a me e ai soci della Tucano. e c'è stato il distacco. Alcuni sono stati in Tucano, alcuni sono stati in Tucano Urbano. Dalla Tucano si sono staccate 5 persone in Tucano Urbano, adesso siamo in 35. Quindi tu praticamente studiavi? Io studiavo agraria e ero al secondo anno, terzo anno, mi piaceva anche molto. Quindi all'inizio voi facevate praticamente un'attività quasi di porta a porta, vi siete rivolti? Inizio sì, cioè inizio mentre l'azienda computer andava avanti per la sua strada, la branca moto fatta da pochissime persone all'interno, oltre a sviluppare questo prodotto e pochi altri, provava anche a commercializzarlo, per cui sì, porta a porta. Dal punto di vista invece dei finanziamenti iniziali del progetto? Quello è stato il grosso vantaggio di nascere all'interno di un'azienda, perché è stato un esperimento, una prova, e c'è stata la possibilità di tirare avanti i primi anni senza risultati economici, ma comunque con l'appoggio e con le fondamenta per lavorare. La tua famiglia aveva già, cioè, sapeva già che era un lavoro, quindi aveva già accettato il fatto che dovessi... Mi, nel senso che la mia famiglia ha accettato che io mollassi l'università, dopodiché questo non era un lavoro, anche perché non è nato come, cioè, è nato come lavoro, ma non con assolutamente senza nessuna lungimiranza, senza nessuna certezza di futuro, perché era per me personalmente era una mano per un progetto, per cui in teoria sarebbe finito nel giro di qualche mese. Ti ricordi l'ultimo esame che hai fatto e quanto hai preso? L'ultimo esame che ho fatto è stato genetica e ho preso 21. È difficile secondo te per un giovane avviare un'impresa dal nulla al giorno d'oggi? Penso che sia difficile, obiettivamente penso che sia difficile. Cioè, io ho avuto una gran fortuna, ho avuto una grande occasione, per vari motivi è stata l'occasione giusta, l'ho colta o mi è capitato addosso, non so dirlo. Penso che sia molto difficile, che non sia impossibile. Per gli amanti di moto e scooter, il freddo e la pioggia non sono più ostacoli. Grazie a Francesco Colombo, che dalla facoltà di agraria è passato al mondo delle due ruote con la Tucano Urbano. Tesi in attesa per oggi finisce qui. Il programma è stato realizzato dagli studenti del Master in Radiofonia Quando Verba Manent dell'Università Yulm di Milano. Lo scrittore di libri gialli e la Mystery Client sono state le improvvisazioni professionali di oggi, mentre l'intervista è stata fatta all'ex studente di agraria Francesco Colombo, fondatore di Tucano Urbano. Le interviste sono state realizzate da Matteo Casali, Chiara Guadagnino, Tommaso Aimo. Per approfondire i lavori stravaganti raccontati nella puntata di oggi, www.radio24.it nella sezione programmi, oppure digitate Tesi in attesa nella maschera di ricerca di Facebook. Noi torniamo settimana prossima, domenica alle 14 su Radio 24, con altri lavori ed altre storie di giovani studenti italiani. 2, 2.